Riprendo ancora il tema potere e amore. I due simboli, come vediamo anche qua, sono quelli noti, quello del potere, questo qui, e l'altro, il cuore. Bene, li possiamo mettere su un asse, questi due simboli, a due poli, uno da una parte a sinistra, l'altro a destra. Metto a sinistra per ottimismo e anche perché in effetti di sicuro il potere appartiene al passato e al presente, ma non al futuro dell'umanità. Futuro è l'amore. Bene, dove normalmente abitiamo non è nel potere, nell'amore, è una zona centrale, potremmo vedere una curva di distribuzione normale di questo potere amore e vediamo che normalmente abitiamo in una zona centrale in cui i nostri comportamenti sono dettati da entrambi le componenti e quindi a seconda dei contesti, specialmente se sono comportamenti che hanno un impatto forte dal punto di vista affettivo, possono contenere doppi legami. Perché la persona che dice ti amo, mentre in realtà non è vero, genera un doppio legame, perché crea un messaggio confuso che l'altra persona non sa decifrare. Possiamo dare allo stesso fenomeno il termine di racket, cioè una manipolazione della verità. Usiamo lo stesso fenomeno, il nome di ombra, cioè l'ombra è ciò che la persona non sa di sé, ma che comunque agisce dentro di lui e agisce attraverso i suoi comportamenti di comunicazione. Sulla sinistra, cioè nel normale ambito del potere, vediamo poi l'estremizzazione dell'uso del potere, che diventa estremo quando viene esercitato su un innocente, cioè su un qualcuno che ha il cuore ancora aperto, per esempio un bambino, ecco, oppure una persona in condizioni di innocuità. Ecco, quando il potere si esercita lì, si esercita sull'innocenza, diventa l'estremo del potere, che quindi il simbolo può essere la croce uncinata, cioè il momento in cui l'umanità avrebbe raggiunto il livello più alto di malvagità. Dall'altro lato vediamo che il cuore, nel momento in cui si esercita l'amore nei confronti di un essere, tra virgolette, malvagio, quindi si esercita nei confronti della croce uncinata, cioè di colui che persegue un innocente, quando si ama persino il persecutore di un innocente, come potrebbe essere un pedofilo, ecco, allora quel tipo di amore, quando si esercita così, il simbolo vero è quello della croce, cioè il simbolo di Gesù che ama il mondo anche se il mondo è malvagio. Normalmente non siamo in grado di amare il mondo perché è malvagio, quindi noi amiamo solo ciò che riconosciamo buono e odiamo o detestiamo, o quantomeno mostriamo indifferenza a ciò che c'è cattivo. La trasformazione del mondo avviene attraverso l'amore verso il male, verso coloro che producono il male. Ecco, questo non significa ingenuamente assecondare il male, proprio l'opposto. Significa depurare il male, fornendo al male, riempiendolo di bene. E naturalmente il male non risponde al bene col bene, risponde al bene con il male, quindi la persona che fa del bene al malvagio ne ricava in cambio di solito un esito negativo. Questo esito negativo però ha un prezzo che la persona che paga e naturalmente per pagare questo prezzo bisogna che abbia una visione molto ampia. Ecco, Gesù è stato più grande in questo, no? Si lascia crocifiggere, anche potendo evidentemente evitarlo, come redenzione dei peccati del mondo. Parlo abbastanza chiaro. Per noi questa cosa oggi può risultare incomprensibile agli atei, ai non credenti o comunque a non cattolici se non viene vista nella sua simbologia profonda, che è una simbologia umana. La redenzione è questo, cioè il perdono del malvagio e l'accettazione che il malvagio può anche non redimersi, perché è facile perdonare una persona che si redime, è molto più difficile perdonare una persona che non si redime proprio, anzi persevera. Molti esseri umani hanno raggiunto uno stadio in cui non c'è ritorno. Questo va ammesso, non è che possiamo redimere, ecco, ma questi non possono essere redenti, ma possono essere redenti gli altri. Ecco, il compito degli altri, almeno di quelli che hanno grande visione, è redimere il male ovunque esso sia. Quindi non rispondendo al male col male, ma con il bene, anche se indietro torna il male. E questo è il messaggio di Madre Teresa, per esempio, no? Quando dice faccio del bene, cosa ti prendono a calci gli altri? Non è che ti... Perché se no il far del bene sarebbe economicamente produttivo. Questo è ciò ingenuamente le persone credono in certi contesti, New Age, dove faccio il bene, mi ritorno al bene, ma non è assolutamente vero. Fai il bene, prendo a calci. Anzi, molto, molto gravemente a volte, diventi un nemico assoluto, perché il potere, attaccato a se stesso, non si molla assolutamente. Va bene, ho detto qual è il simbolo della croce, che cosa essa sta e come dietro ci deve essere un amore più grande di quello comune, sicuramente, e deve essere un amore ripulito da tutti, dagli inquinanti. Adesso dico due parole sulla psicoterapia. Una psicoterapia, sappiamo, è il cammino verso la verità. La verità non dalla verità fisica, come è fatto l'atomo, come è fatto un quark, ma la verità si intende verità interiore. Cioè, che cosa alberga al nostro interno? La psicoterapia serve a sciogliere l'ombra, almeno la grossa parte dell'ombra, quella più pericolosa. Finché c'è ombra, siamo in conflitto con noi stessi, ovvio. Quindi i vettori non sono assolutamente allineati, ma sono divergenti uno contro l'altro, uno da una parte e uno dall'altra. Dopo una psicoterapia riuscita, ci dovrebbe essere molta più convergenza dei vettori, cioè molto meno conflitto, cioè molta meno dispersione di energia vitale in strutture dissipative, che non hanno alcuna utilità, ma creano soltanto danno a sé e agli altri. Beh, quindi la psicoterapia dovrebbe essere un impegno etico, che le persone si prendono tutte, possibilmente. C'è chi aveva pensato questo, ma vabbè, adesso non sto a parlare della storia. In Oriente, chiaramente, questo processo è considerato seriamente da sempre. Mentre in Occidente ci si è occupati del mondo esteriore, in Oriente, specialmente in India, ci si è occupati soprattutto dello studio del mondo interiore, cioè dello studio del sé, come è fatto il sé umano, cioè come è fatta la struttura profonda della mente umana. Rispetto alla cultura indiana, noi siamo dei bambini piccoli, cioè ecco, anche con la nostra psicologia, rispetto alla psicologia dello yoga, ecco. Ma laggiù la psicologia dello yoga si è occupata soprattutto dell'inconscio superiore, cioè di dove, verso cui andare e così via. Si è occupata meno dell'inconscio inferiore, quindi delle psicopatologie, delle subpersonalità, dell'ossessione, che considera tutte equivalmente dannose, non fanno una grande distinzione, perché laggiù in India, almeno in questo tipo di cultura, guardano all'uomo realizzato, cioè all'uomo che non sta più liberato, senza più condizionamenti, cioè senza più conflitti. E quindi senza più tutto quell'insieme di emozioni distruttive che ci accomunano. Ecco. Allora guardano a quello che, verso cui andare e non guardano con più di tanta attenzione alle cose come stanno, perché le cose stanno male. Ecco. È come a vedere una serie, come un architetto che vedesse tutte case sbilenche, piene di crepe, con le fondamenta malmesse, non si mette a studiare come sono fatte queste case, lascia perdere, si mette a studiare come sta una casa su, come è fatta quando è fatta bene. Quindi in un certo senso, in India hanno già fatto quello che noi stiamo scoprendo adesso, che è il modellamento delle persone sane e delle persone realizzate. Che in Occidente diciamo che inizia con Maslow. Fino a Maslow la psicologia era una psicologia e una psicopatologia, cioè lo studio della malattia. In Oriente da sempre e in Occidente con la psicologia umanistica inizia lo studio delle persone sane e delle persone realizzate. Quindi questa è una trasformazione radicale. Pianella umanistica si pone qua dentro, ovviamente, no? Nello studio delle persone realizzate, perché sapere che cosa vuoi ottenere, che cosa è importante ottenere, come è formare un buon obiettivo. Perché altrimenti è sempre un via dà le mie patologie, via dà le mie paure, via dà le mie ossessioni, ma via dà mi porta un poco lontano. Il vero passaggio è verso che cosa voglio andare. Quindi il risultato finale verso cui vogliamo andare è uno stato d'amore, che più possibile duri, cioè, che quando non c'è ce ne rendiamo conto e sappiamo come riattivarlo. Vivere in uno stato d'amore è vivere davvero, vivere fuori dallo stato d'amore è non vivere, è vivere male e vivere in uno stato che non è quello umano. Questa descrizione che sto dando, che è una descrizione radicale, in realtà è una descrizione non estremista, ma radicale nel senso che va alle radici di chi è un essere umano, chi siamo. Siamo persone, abbiamo un potenziale divino dentro di noi e se non lo realizziamo, ovviamente stiamo male, di più o di meno. Ci sono persone che sembrano adattate, sono adattate a un tipo di società che è del tutto disequilibrata, che è distruttiva, lo si vede da come trattiamo l'ambiente, da come trattiamo i poveri, da come trattiamo i malati, tutte le indicazioni sono dappertutto. E quindi le persone adattate a questa società sono i visi sereni di cui parla il papiro egizio del 2000 a.C. Un uomo che stava per suicidarsi parla con la propria anima, a un certo punto dice: ma chi posso parlare oggi? Non ho veramente amici a cui parlare, non c'è nessuno che sappia venire ascoltare. Che posso? Parlare con una di quelle persone che hanno i visi sereni? Ma no, se vado a vedere dentro sono più malvagi degli altri. Cioè sono le persone che stanno bene così, senza far nulla per cambiare il mondo in cui siamo. E chi sta bene così non sta bene, è solo una maschera. Comprendere questo significa entrare alla radice del processo, di che cos'è l'uomo. E se facciamo questo, allora attingiamo energie veramente grandi, veramente trasformative, altrimenti sono delle imbiancature di un locale pieno di crepe. Certo, è meglio dargli bianco rispetto a niente, non dico di no, però il cammino, a volte dare il bianco può essere anche una perdita in occasione, che non fa vedere veramente le crepe. Talvolta una bella crisi, bella potente, può essere quello che consente finalmente di vedere che la propria casa non ha fondamenta buone, non ha fondamenta su un terreno solido. E a questi punti bisogna rifare fondamenta. E quel momento è il momento più grande della propria vita, è lì che si comincia a rinascere. Noi cerchiamo di evitare che di vedere le nostre fondamenta sulla sabbia o sul terreno privo di ogni consistenza, perché questo ci fa paura ovviamente, preferiamo non vederlo. E tutto questo quindi alimenta la nostra ombra. La paura però è una cattiva consigliera, perché attraverso la paura noi creiamo tutta una serie di situazioni di autoassicurazione, di stampelle, che ci rende sempre più lontano nel momento in cui ci risvegliamo. Invece, prima ci risvegliamo, meglio è, dal momento che il vero risveglio è una fonte infinita di gioia. Come faccio a sapere se una persona si è risvegliata? Se abita nella gioia. Quella è l'unica cosa. Una gioia non basata su che cosa ti è successo quel giorno o quello che è successo il giorno prima, ma una gioia dell'essere, cioè una gioia che è radicata nel profondo della propria struttura. E non può che essere così, dal momento che la nostra struttura è collegata a tutto l'universo. Se noi ci guardiamo in giro, tranne i guai che hanno fatto l'umanità, l'universo è straordinariamente bello, straordinariamente armonico, è una meraviglia assoluta, dal microcosmo al macrocosmo. Guardate come sono le stelle, guardate dentro una galassia, guardate dentro un telescopio, guardate dentro un microscopio e semplicemente aprite gli occhi e guardate fuori dalla finestra oggi. Cioè, chi non riesce a godere in modo profondo di tutto quello che c'è, vuol dire che è psicotico. Però siccome la psicosi è diventata la nostra malattia comune, allora siamo tutti sani, e invece no, siamo tutti malati. E il compito nostro di Aleph è far scoprire che siamo malati e che è una gran fortuna che uno si renda conto. Perché in quel momento può sì cominciare a guarire. Le relazioni non possono essere relazioni superficiali che continuamente vediamo, riempite di barriere dal mattino alla sera, o di freddezze, che possono essere barriere calde, di quelle intense, o quelle barriere fredde, in cui non ci si accorge nemmeno che esistono, ma che proprio per quello generano una sofferenza cronica. Ecco. E quindi quel tipo di mancanza di vitalità. E proprio in famiglie così alleviamo dei bambini e poi speriamo che crescano sani, ma è impossibile. Abbiate pazienza, non è proprio possibile. Se vogliamo allevare dei bambini sani, i bambini sono sani, nascono sani, vengono al mondo così, bisogna che le famiglie siano cariche di energia vitale, cioè ci sia entusiasmo e gioia. Questa è una famiglia in cui io personalmente sono pronto a nascere anche un'altra volta.